Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Radiobook. Oggi vi presento un mio amico. Si chiama Riccardo Will Gatti, è di Udine e è una persona tutta particolare. È uno di quei diciannovenni che vi fanno cambiare idea sui diciannovenni. Lascio che sia lui a presentarsi. Il mio nome è Riccardo Will Gatti e ho 19 anni, anzi avrò 19 anni quest'ottobre. Sono un ragazzo qualsiasi, uno di tanti che vive qua a Udine. E sono uno scrittore emergente. Da poco ho intrapreso questa assurda e meravigliosa via della poesia. Scrivo testi miei, racconto in versi quello che vedono i miei occhi e come percepisco tutto quello che mi sta accanto, dalle persone alla società, ai miei stati d'animo e soprattutto alle mie muse. Io riesco a scrivere solo quando sono innamorato. E è strano da dire, però scrivo molto, ma perché in questi ultimi tempi, forse anni, quindi si sta parlando di 3 anni, io sto iniziando un po' a risvegliarmi, ad aprire gli occhi sul vero senso oggettivo delle cose e anche sul vero senso umano delle cose. E quindi io riesco a trovare anche l'amore dove nessuno lo riesce a vedere, che non per forza deve essere legato a una persona, non per forza. Io da almeno 3 anni vivo, quindi da quando avevo, sì e no, 16 anni, da 3 anni vivo la mia vita a cicli. Ora vi spiego meglio. A volte le persone, la vita, Dio se esiste e mi saluta da lassù, mi regala un pensiero, un qualcosa. Io lo inizio a pensarci, a estrapolarlo, a farlo mio, a provarlo sulla mia pelle soprattutto. Solo lì riesco a capirlo, solo così non riesco a essere superficiale con i pensieri, almeno tento. E questi cicli possono durare anche 6 mesi, costantemente ogni giorno. È una cosa, sì, abbastanza masochista, però io sono fatto così e accetto questo. E sono un poeta emergente, come ho detto prima. Scrivo poesie, ora grazie a un gruppo di poeti e musicisti ci stiamo esibendo da meno di un mese. Abbiamo fatto la Girada come tappa dell'8 marzo, la mia prima lettura, ci saranno state 80 persone, me lo ricordo ancora, è stato veramente importante per me, è veramente importante il primo passo per tutti gli artisti. E poi siamo stati il 21 marzo al Bar Petrarca e ci potete trovare, anzi mi potete trovare, facciamo un po' di pubblicità gratuita, il 19 aprile al caffè letterario di Via Poscolle. E io sono un ragazzo qualsiasi, non mi piace definire. E soprattutto non mi piace definirmi. E che usa la poesia, usa la scrittura, usa l'arte in generale per una necessità, forse anche sbagliata. Noi giovani, soprattutto i miei coetanei, quindi si parla dei maggiorenni o poco più, siamo veramente una categoria di persone troppo eclissate. Siamo quelli che non vengono ascoltati per via della poca esperienza o quelli che sono catalogati come oddio, quella è l'età in cui si beve tanto, si fanno sciocchezze, si infrange la legge. È così, però non è sempre così. Anzi, appunto perché proviamo le cose per la prima volta, con i nostri occhi, con il nostro metodo di giudizio, secondo me siamo utili per tutti quanti. I nostri pensieri sono molto profondi, sono ancora, non dico purissimi, perché la società ormai ci ha sporcato tanto il modo di vedere, almeno tante persone, tanti miei coetanei vedo sì, magari sono anch'io uno di questi, chi lo sa. E quindi non avremo i pensieri e non avremo la purezza e non siamo liberi come sono i bambini, però non siamo neanche vincolati da come sono gli adulti da questo sistema, da questa società che veramente ci uccide dentro, uccide la nostra arte, perché tutte le persone possono essere artisti, tutte le persone fanno già arte. Ricordiamolo che l'arte non è altro che provocazione. Qualsiasi cosa astratta dalle parole, da un quadro, da un gesto, se provoca qualcosa in un'altra persona, è arte. È arte. L'arte è la cosa con la definizione più semplice e più naturale possibile. E quindi ora vi vorrei leggere una poesia che tratta da Mezze Corde, l'ultimo mio manoscritto, questa raccolta di 37 poesie che è stata fatta in 9 giorni. Mezze Corde è dedicata alla mia musa, era dedicata alla mia musa perché adesso questa musa non è più musa per me, gli artisti sono tutti un po' strani. Questa ragazza si chiama Emma e quest'anno compie 23 anni e il destino, perché io non credo al caso, me l'ha posta davanti alla faccia dopo aver perso la musa prima, esattamente pochi giorni dopo. Con lei è stato un bel periodo e sta ancora succedendo un bel periodo dal punto di vista artistico perché sto riflettendo su un'età e su dei comportamenti di quest'età che sono veramente molto interessanti sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista generale. Penso che solo in questo periodo ho iniziato a capire veramente l'umanità delle persone e l'umanità dentro le persone, che questa cosa si dà molto per scontato. E non solo a sentimenti puliti e meno puliti, puri o meno impuri, come può essere l'amore. E infatti questo testo, questa raccolta di testi sono tratti da un pensiero d'amore che poi d'amore parla veramente poco. Io sono una persona che nelle sue poesie e lavora molto di immaginazione, lavora molto a metafore a volte. E a me piace analizzare, non sono una mente tecnica, anzi, sono una mente molto letteraria, però sono curioso, soprattutto sono curioso sulle persone. E quindi la poesia che vi voglio leggere si chiama Gli indefinibili. Droghiamoci per non vedere. Questo paradiso che sta per morire. Dateci tempo e finalmente lo stravolgeremo. O faremo finta di provarci almeno, diventando stanchi adulti, senza occhi, senza faccia staremo muti. Gusci vuoti senza sogni. No, no, dimmi che non diventeremo mai non umani, ma resteremo il tutto e non saremo niente. Dall'aquila al serpente, dalla luna al sole, dalla goccia sul balcone all'inutilità delle parole. In fondo siamo patetici. Non ci descriviamo con la speranza di sentirci unici. Io non sono il solo che scrive, io non sono l'unico che vuole cambiare questa società. A Udine siamo tanti, i giovani a Udine sono tanti, i giovani che vogliono cambiare le cose e soprattutto questa società. Ce ne sono, non sono tutti, ma secondo me è l'impostazione che ci stanno dando. Non voglio dare la colpa a nessuno, anzi, la colpa in primis è nostra, che la società ci sta dando, diciamo. Diamo la colpa alla società. E che le cose non si possono cambiare. C'è un pessimismo di massa che veramente sta uccidendo la creatività nei giovani, la voglia di andare avanti, la voglia di crescere, la voglia creativa di voler urlare questo meraviglioso periodo della nostra vita che è stupendo, che ti fa apprezzare veramente quanto la tua vita è bella e quanto sei fortunato. Ovviamente se hai gli occhi per capirlo. E quindi così, noi a Udine siamo tanti, noi a Udine stiamo facendo tanto per Udine. E soprattutto tanto per noi stessi e tanto per il nostro pubblico, perché noi puntiamo a sensibilizzare, più che a sensibilizzare, a cambiare qualcosina a Udine. La superficialità delle persone, per esempio. Io in primis, io e altri siamo in prima fila ogni giorno a combattere contro la superficialità delle persone, perché tutti quanti meritano di scegliere consapevolmente la propria vita. Giusto e sbagliato non esiste, però la superficialità uccide la mentalità umana. E quando la superficialità finalmente se ne andrà, perché deve andarsene, è necessario per l'evoluzione dell'uomo, allora magari forse non esisteranno più artisti, forse non esisterà più gente come me che lotterà per una cosa così umana, così giusta. Quindi vorrei ringraziare ancora la Giulia Mastrantoni, che è questa grandissima amica, questa grandissima scrittrice che anche lei sta facendo tanto. Per noi semplici mortali, per noi popolo, per noi pubblico. La ringrazio per avermi dato questo spazio e vi saluto e ci troveremo magari in giro per Udine mentre leggerò delle poesie in piazza. Anche oggi, per terminare la nostra puntata, leggerò un racconto. Il racconto che ho scelto è Scott è un cane blu e l'ho scritto qualche anno fa. Il mio cane è sempre stato blu, da sempre, sul serio. Non credo di averlo mai discriminato per questo e tutto sommato, non credo neanche di averci mai fatto caso più di quel giusto tanto che mi sembrava essere d'obbligo in tale situazione. Dopotutto, un po' di attenzione il mio cane blu se la meritava. Per cui mi sentivo in dovere di tenere in considerazione quella peculiare colorazione del suo pelo, dedicando al mio quadrupede un paio di occhiate di meraviglia al giorno, quattro croccantini ripieni di crema ai gamberetti, che era la sua preferita, e un po' di coccole extra. Quando lo portavo a passeggio i bambini mi fermavano, allungavano una delle cinque dita di una di quelle loro due mani e la puntavano contro il mio Scott e urlavano: «Mamma, c'è un cane blu!» Quando la Disney lanciò il cartone animato Lilo e Stitch, lo ammetto, fui tentata di fare causa alla casa di produzione. Scommetto che qualche avvoltoio hollywoodiano ha visto il mio Scott per strada e si è ispirato a lui per la storia. Scott dovrebbe averne i diritti, no? E comunque non mi era mai realmente importato. Non volevo soldi, non erano indispensabili. Il punto è che a distanza di qualche anno la mia carriera di scrittrice non è decollata e non ho un euro. Ho chiamato il mio ragazzo, che fa l'avvocato, e gli ho detto di intentare una causa per spillare soldi alla Disney. Lui, che ringraziando il cielo è totalmente succube, ha iniziato a lavorare. Ha chiamato medici, veterinari, zoologi, chimici, biologi e giù tra analisi, controlli, certificati e accertamenti. A quanto pare serve più di un referto scientifico sul colore del pelo di Scott per intentare la causa. E questo si attuerà per mezzo di test visivi o non so che altro. Ogni specialista dovrebbe osservare Scott sotto vetro e confermare che alla vista appare blu. E ci volevano i medici, veterinari, zoologi, chimici, biologi, eccetera, per questo. Comunque, il mio ragazzo ieri è venuto a casa. Amore, tutto ok, la causa si intenta. I test hanno confermato che il colore del pelo di Scott è blu. Grande! Sì. Senti, fammi un favore, apri l'armadio e prendi la tintura. Scott sta tornando marrone. È blu tinto? Sì. Oh, cazzo. Scusa, che ti aspettavi? Amore, è una truffa. No, guarda, il verbale dice che Scott è blu da sempre, è vero, io lo tingo da sempre, da quando è nato. La Disney non è stata convinta della mia spiegazione e ci ha mandati in carcere per tentata truffa. Ma vi dirò, ho scritto un romanzo su questa storia, è stato pubblicato e io sono una scrittrice famosa. Quindi direi obiettivo raggiunto. Questo per dirvi di non mollare mai nella vita. Non si sa mai, ogni situazione ha risvolti inaspettati, quindi fate del vostro meglio, siate creativi e non provate a fare causa alla Disney.